mezza via, speruto pa' vedere. Faccia giorno sempre festa attorno, sperando c'è parlare. Oi mari, quanta suono caperdo per te. Abbracciato nu poco con te, oi mari, quale tuo suono per dove te, fammi dormire, oi mari. Pare che già sarà pe, nasen che fenestera, Maria Canamanella, lo segno me me fa. Sfegata, una bella serenata, facimmela sentì. Oi mari, quanta suono caperdo per te. Abbracciato nu